di ambulanze e megafoni di protezione civile. Forse scanseremo il coronavirus, ma la ricostruzione sarà ancora più difficile. Dunque, rigorosamente soli, certo. Chi ha case grandi e luminose, giardini, campagne, terrazze, può forse fare a meno di uscire e ben venga, ma cerchiamo di avere comprensione per chi cammina per mantenere il proprio equilibrio. Adesso procedo a telefonare alla professoressa Maristella. Siamo pronti, Fred? Ma penso di sì, Virge. Attenzione. Guarda, mi accendo una sigaretta perché sono nervosa. Maristella, buongiorno. Eccoci, siamo in diretta, credo, spero ancora per un po'. E tu come Ciao stai? Posso... Eccolo, Maristella! Ciao c'è anche Fred. C'è anche Fred. Eccoci, abbiamo appena letto il post che avevi scritto il 19 marzo sulla possibilità e l'impossibilità attuale di camminare e di andare a farsi una passeggiata per evadere per un'oretta dai pensieri apocalittici che ci vengono durante questa pandemia. Mi vorresti spiegare come mai insomma, perché ti è venuto da scrivere quel pensiero e che cosa pensi in generale della maniera in cui si sta contenendo questa pandemia e delle misure che limitano la nostra libertà, in primis la libertà di farci un giretto, una corsetta? Guarda, diciamo che come forse sai, io sui social ho questa pagina psicopolitica, che ovviamente non è di politica, ma serve per una riflessione sui meccanismi psichici e sulle cause e sugli effetti appunto dell'agire politico e del pensiero politico dei nostri tempi. Quindi il post fa parte di questa serie, diciamo, dato che il coronavirus si iniziava già a dire che neanche camminare si poteva, è stato logico per me fare questo post nel tentativo anche di influenzare, insomma, qualche cosa siamo riusciti a fare, perché almeno intorno al palazzo si può continuare a 200-300 metri, si può continuare a camminare. Perché camminare è così importante? Io lo spiego nel post, perché insomma è evidente che sfruttiamo un ricordo, diciamo filogenetico, cioè del nostro mondo animale. Camminare, specie a passo veloce, corrisponde a fuggire. Fuggire da un pericolo che molti milioni di anni fa era reale, ora può essere anche il nostro camminare un allontanarsi fittizio, perché i pericoli sono invece proprio del mondo immaginario, non sono più un grande animale che ci perseguita, ma in questo caso l'invasione, il pericolo viene addirittura dall'infinitamente piccolo, cioè un virus. Quindi camminare è chiaramente una via di fuga e strucca le carte, cioè in fondo inganna la nostra ansia, fa credere a parti antiche del nostro cervello che stiamo allontanandoci dal pericolo. Quindi questo insomma fa sì che si pensa che Mandela è riuscito a resistere a 25 anni di prigionia in Sudafrica camminando da fermo, cioè sai che cos'è, no? Cioè la Sì. marcia che si fa da fermo, e lui stesso lo faceva un'ora al giorno. Immagino che non fosse certamente un piacere in sé e la cosa più comoda, ma una modalità di resistenza. Sì. Ci sono anche delle evidenze che le difese immunitarie aumentano con il camminare, e ne ha parlato recentemente una persona che stimo molto, che è Silvio Garattini, e del fatto che appunto era un errore impedire a runner solitari o a camminatori di camminare un po' più a lungo. Comunque ormai, come si dice da noi, cosa fatta capo ha. Quindi del mondo, ecco. E evitare di entrare a gamba tesa in un delirio psicotico, come potrebbe, diciamo, mano a mano sembrare. Esatto. Anche perché ieri quando abbiamo chiacchierato tu mi parlavi di questo processo psichico che si chiama derealizzazione, a cui siamo sottoposti in questo momento. Mi vuoi parlare di questo e di come possiamo resistere? Questo è, diciamo, insomma, un po' la derealizzazione è legata, come tu stessa hai detto acutamente, al cambio della percezione che noi abbiamo del nostro stesso spazio intorno, cioè una città vuota, silenziosa, noi non ne abbiamo praticamente mai viste. Io una volta dicevo una cosa un po' che fa un po' rabbrividire, che l'individuo è un concetto in fondo, no? Cioè è quasi difficile anche immaginarsi il solo pensiero, di immaginarsi soli sulla scena del mondo, ci colma di angoscia. Ti voglio anche dire che è un delirio, cioè che questo della fine del mondo e della solitudine assoluta e le città vuote e senza suono rappresentano un cambio della percezione, cioè non è un nuovo scenario, è lo stesso scenario di sempre, che ha dei mutamenti, se vogliamo quasi in senso operiano, no? E in cui tu vedi gli stessi scenari che però sono vuoti, silenziosi, e quindi sei nella realtà o no? Oppure quindi la tua stessa realtà, l'ambiente intorno viene percepito, pur essendo di solito, come un ambiente irreale, sconosciuto, come se uno sta in un posto che assomiglia al posto dove sta di solito, ma non è quello. È facile immaginare che questa è una sensazione tipica della schizofrenia. E meglio ancora dei disturbi borderline fra psicosi e nevrosi. E anche per mia esperienza clinica, la parte che sta, diciamo, dietro agli attacchi di panico, non di rado. Sì. Cioè, in fondo, l'attacco stesso di panico è legato a questa oscillazione, diciamo così, del mondo tra reale e irreale. Quindi, diciamo, questo mondo vuoto, questo mondo animato per di più da sirene di continuo, penso a Bergamo, una collega scriveva su un gruppo di medici di prima linea che ormai allucina le sirene, cioè lei sente le sirene, lavora a Bergamo, anche quando le sirene non ci sono. Pensate. Quindi, tre passi nel delirio e non solo tre, cioè il rischio in fondo è che in qualche modo, non vorrei essere troppo forte in una trasmissione che poi è, diciamo, culturale, ma pur sempre rivolta a un pubblico che vuole più essere raffigurato che spaventato, però sapere rinforza le difese cognitive. Il meccanismo del pensiero logico e dell'analisi del nostro pensiero e dell'analisi, il pensare, allenarci a un pensiero analitico è anche una delle cose che può salvarci. Ed ecco, quindi è importante da un lato vedere, diciamo così, il veleno e dall'altro però vedere anche l'antidoto. E quali sono gli antidoti fisici e psicologici? Diciamo che innanzitutto conoscere la situazione, questo è il primo antidoto, perché la appunto fa la difesa cognitiva, ragionare sulle cose è l'antidoto e anche sicuramente in questo, io direi che in questo momento, dato il problema dell'isolamento che ha preso, diciamo così, anche questo è entrato dagli incubi della psichiatria, perché il simbolo stesso dell'isolamento e del contagio è il manicomio, e io direi che innanzitutto dobbiamo fare attenzione alla nostra casa. Esatta. Questo non sembri un discorso un po' che mangi lo brioche, diciamo, perché, come dice un bel proverbio latino, parva sed aptam, piccola, ma adatta a me. Ciò che conta nel guscio della carta, che a questo punto il nido e la protezione e sono le braccia in cui stiamo, e anche la capacità di stare comodi nel nostro stesso mondo. Quindi diciamo che intanto cominciare a riflettere sulla propria casa, occuparsi della propria casa, è una maniera molto semplice, alla portata di tutti. Non è che tutti possono leggere 4 volumi di Guerra e Pace e ascoltare tutte le brandeburghesi. Esistono anche persone, anche provviste culturalmente, ma che non hanno, diciamo, un po' quello che io chiamavo il reading alcoholic, no? Io ero una reader alcoholic, cioè una persona che non poteva fare a meno di leggere. Quindi occuparsi della propria casa, io ho coniato un concetto su cui, se tu vuoi, poi ritorneremo, ma non in questa trasmissione, che si chiama psicodesign, che parla proprio della, in qualche modo, del come fare perché una casa sia in realtà un luogo in cui che connette, riesce a dare un'identità alla casa che sia un riflesso, che un intreccio rispetto al proprio abitante. Cioè il concetto di psicodesign è un concetto che io ho elaborato nel 2011, credo, ed è il fare una casa in cui c'è un sistema di oggetti che è in relazione con le storie personali, con le radici geografiche, familiari, le passioni degli abitanti. Se la nostra casa è così, intanto possiamo, se non è così, correggere e vedere nella nostra casa come fare perché sia un luogo comodo psichicamente per noi. Ordinato innanzitutto, magari. Innanzitutto, una cosa bravissima, perché proprio l'ordinare è una potente operazione psichica. Tutto il nostro agire è un agire simbolico anche, no? Riordinare la propria casa. Io avevo un meraviglioso maestro psicoanalista kleiniano, che è Solomon Resnick, che ha scritto Persone e Psicosi per l'Einaudi più di 40 anni fa, quando io mi sono specializzata appunto in psichiatria, che faceva vedere un paziente psicotico che si radiava i capelli e diceva: guardate, radiarsi i capelli per lui, che è psicotico, equivale a radiarsi le idee. Quindi un po' pulire la nostra casa, riordinare, forse anche un cassetto, perché il riordino è simbolico. Fosse anche un album di fotografie, fosse anche la nostra, stare attenti, no? Perché la memoria in questa situazione di stato d'animo un po' alterata è anche un trabocchetto, cioè fa parte delle operazioni lo stare troppo a rimuginare, a ricordare senza guida, che possono essere anche invece patogene. Quindi dobbiamo imparare a dirigere anche i nostri pensieri verso degli oggetti interni che siano più adatti, diciamo, a non precipitarci in stati d'animo che possono anche essere intriganti ed affascinanti. Ma sono dei burroni, sì. Esatto. Questo, la musica, è un'altra cosa a cui bisogna stare attenti. Io ti voglio poi dare un consiglio, voglio dirvi una cosa paradossale, che in cui, proprio perché riflettevo sui fatti miei, anche io per stare meglio, no, in questa triste contingenza, io paradossalmente, perché ho molti meno pazienti, anche questo è interessante perché è un paradosso in qualche modo, ma il problema del pensare e del riordinare deve anche fare, cioè occorre anche una grande attenzione a non inciampare in stati d'animo troppo enfatici. Tutti noi italiani, è uno dei problemi nazionali, abbiamo creato il melodramma, è molto sintonico con il nostro carattere nazionale, e c'è una pericolosa tendenza a trasformare anche i nostri piccoli drammi individuali in melodrammi amplificati da palcoscenico, e poi è un po' quello che ci rimproverano dei paesi più diciamo più freddi, più freddi. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché la nostra stessa ricchezza affettiva e creativa ci porta a voler, appunto, come tu dici, enfatizzare il ciglio del burrone, no? Guardare l'abisso. Allora io ho un antidoto molto banale: fare cose scomode. Ad esempio per noi questo programma radio. Assolutamente. Non credo, è divertente invece. Cose scomode, varia secondo quello che è scomodo per te. Non so, Erickson consigliava a chi non soffriva di insonnia di stirare la notte per farti capire qual è il concetto di scomodo. Ah, ok, delle cose noiose. Se a uno piace stirare di giorno, se uno invece ama stirare, non è più una cosa scomoda, non è più una buona prescrizione. Quindi è in relazione con quello che per te è scomodo. Per esempio, io personalmente trovo che il violoncello, non me ne vogliono i violoncellisti, ho anche un carissimo amico che è un grande violoncellista, con questa loro musica ripetitiva, ma anche Glass e anche appunto Bach naturalmente, anche Mozart, hanno questa musica che non è Chopin, cioè non è Brahms, non è non ti immerge. Naturalmente anche questa è una cosa individuale, perché le sensazioni che prova la musica, che fa provare la musica, certo, sono molto individuali. Quindi fare cose scomode, per esempio chi è pigro può fare ginnastica. Ah beh, certo. Va sempre bene. Chi odia, diciamo, lavare i pavimenti, li può lavare. Io che odio cucinare. Tu che odi cucinare. Sto cucinando. Un'ora, il tuo giorno a cucinare. Ecco. Perché quando tu finisci di fare questa cosa qui, ti sei obbligata, scomoda, vedrai che il resto ti sembrerà un premio. Va bene, ti ringrazio tantissimo Maristella. Grazie mille Maristella. Sei stata preziosa. Ciao. E ci risentiremo molto presto per parlare di tanti altri argomenti. Ti saluto. C'è moltissimo altro da dire, però abbiamo sfiorato un po' la situazione. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Stai bene, stai sicuro e ci sentiamo presto. A presto Maristella. Ciao Fred, ciao. Ciao. Ciao. Ciao.